Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lidia si è iscritta all'università di nascosto da suo marito e non ha intenzione di dirglielo fino al giorno in cui si laureerà. Paolo ha ripreso i contatti con la sua amica del cuore del liceo. Si scrivono via web, ma lui non lo racconta a Paola, la sua compagna da ormai 10 anni. Tiziana frequenta un corso di danza del ventre e non lo vuole far sapere a nessuno. Lucio, ateo convinto, si sta preparando da mesi a compiere il cammino di Santiago. Ma anche per lui questo deve rimanere un segreto ben custodito. Ci sono segreti, nella vostra vita o in quella di chi vi sta accanto, che custodite gelosamente perché aiutano a vivere meglio solo se nascosti nell'intimità? Considerate questi segreti come un regalo della vita o come un tradimento della fiducia di chi ci vive a fianco? Buongiorno a voi da Nicoletta Carbone. Ci sono parti di noi che tutti conoscono e che noi vogliamo che conoscano. Ci sono parti di noi che gli altri conoscono, magari anche meglio di noi stessi, che non le vediamo, non le vogliamo vedere con quella lucidità e consapevolezza che lo sguardo altrui sa invece dedicarvi. E infine ci sono parti di noi che solo noi conosciamo, che non vogliamo che gli altri sappiano, piccole, grandi zone che nessuno conosce al di fuori di noi, che fanno parte della nostra identità, di ciò che siamo, anche se nessuno al di fuori di noi le sa. È proprio di questa zona, che chiameremo oggi il nostro giardino segreto, che oggi parleremo insieme a voi. 800 24 00 24 e lo facciamo con due ospiti. Saluto Gianna Schelotto, psicologa e scrittrice. Ciao Gianna. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Che ha appena pubblicato per Mondadori un libro che, devo dire, ha ispirato il programma di oggi. Noi due sconosciuti, sottotitolo, sentite, viverti accanto e non sapere chi sei. Qui in studio ho chiamato naturalmente rinforzi Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Se volete intervenire, noi siamo pronti, iniziate a chiamare e direi che prima di tutto vorrei definire insieme a voi questa zona, questo giardino segreto che oggi insieme coltiveremo, cureremo, libereremo da erbacce e infiltrazioni. Gianna, come mai ti è venuta l'idea di questo libro e perché per ciascuno di noi è importante acquisire una consapevolezza della presenza nella vita di ciascuno di noi del proprio giardino segreto? Beh, perché l'idea mi è venuta perché vedo sempre molte persone che portano dentro di sé questi piccoli segreti e che vivono questa loro segretezza, qualche volta con orgoglio, qualche volta con sensi di colpa, qualche volta interrogandosi. O comunque l'idea di avere un proprio giardino segreto li mette in crisi quando cominciano a pensare che anche la persona che sta loro accanto possa avere un giardino segreto. E quindi l'idea di essere esclusa dall'altro nasce dal fatto che sanno di escludere a loro volta. Certo. Alberto, secondo te quali sono i vantaggi e gli svantaggi del possesso del proprio giardino segreto e come può facilitare la propria vita? O al contrario, come anticipava Gianna, complicarla, ad esempio nell'idea che anche la persona che ci vive accanto lo coltiva? Ma io credo che ciascuno di noi ha delle parti di sé che coltiva nella autonarrazione con se stesso, cioè parti di me stesso che sono note solo a me e che costruiscono poi il senso della mia identità, di ciò che sono, mi servono. Segreti che servono proprio al progetto di autorealizzazione, che chiaramente ha bisogno anche dell'altro, ma che non necessariamente devono far parte della vita dell'altro. In questa direzione questo giardino segreto ci fa molto bene. Quando invece è costruito, coltivato, curato contro dei principi che proprio costruiscono la legge della relazione, il voler lo stare con, quando diventa qualcosa che è contro l'altro, e quindi tutelare un segreto significa proteggersi dalla consapevolezza che l'altro può avere di parti della nostra vita che sono parti che distruggono e non che costruiscono, ecco, in quel senso il giardino segreto ci si rivolta contro e può essere molto pericoloso. Allora, a voi ascoltatori chiedo di raccontarci cosa c'è nel vostro giardino segreto, quali fiori state coltivando nel segreto dello sguardo degli altri. Se anche, raccogliendo il suggerimento di Gianna Schelotto, temete, avete paura che la persona accanto a voi coltivi un giardino da cui vi sentite in qualche modo buttati fuori, no? Non avete il codice di accesso, chiamateci all'800 24 0024 perché uno di voi, noi lo sceglieremo nel corso della trasmissione, riceverà a casa il libro di Gianna Schelotto, Noi due sconosciuti, sottotitolo Viverti accanto e non sapere chi sei. In tanti comunque hanno parlato e a modo loro raccontato il giardino segreto di ciascuno di noi, ne ascoltiamo un esempio. Quando ho qualcuno attorno, non la guardo mai, ma sento che mi guarda lei, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d'addosso. Vorrei farle intendere a quattro occhi che non è nulla, che stia tranquilla, che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la volontà d'una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro, e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei, che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m'acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero atterriti in un ospizio di matti. Gianna, già Pirandello, quando aveva scritto La Cariola, aveva capito tutto, no? Esattamente, beh, lui è un maestro in questo. E penso davvero che sperimentare questo proprio segreto nei confronti con gli altri, mettersi alla prova, corrisponde ad una sorta di intensificazione del proprio io. È come darsi delle conferme, e d'altra parte proprio il tenere per sé questi piccoli segreti, che possono essere sogni, fantasie, piccoli ricordi dell'infanzia, proprio da questi piccoli segreti noi traiamo le sicurezze per andare avanti, per avere una consapevolezza maggiore di noi stessi. Alberto, questi sono tempi in cui abbiamo tante possibilità di coltivare degli spazi solo per noi, all'insaputa di chi ci sta accanto. Penso a Second Life, di cui parla anche Gianna Schelotto nel suo libro, penso a come le chat, internet, i social network ci permettono di coltivare cose di noi stessi nella virtualità che nella realtà invece potrebbero risultare impossibili e improbabili. Tutto questo è una risorsa oppure rischia di diventare anche un boomerang? Ma io credo che qua la parola principale diventa controllo, cioè se tu sei in controllo di ciò che scegli di coltivare nel segreto poi della tua vita, se lo fai all'interno di un progetto che senti ti fa trovare, ti fa ritrovare te stesso e non ti fa perdere, allora chiaramente questo è una grande risorsa, un grande vantaggio. Spesso si riesce proprio a sopravvivere anche grazie al proprio giardino segreto, che tra l'altro è la sottolineatura incredibile che fa Pirandello nella sua novella della Cariola. Ti dà proprio l'idea che in questo piccolo gesto io riesco a ritrovare esattamente il senso di me, che non è un senso pubblico, è un senso privato. Se queste cose invece sono cose che ti fanno entrare in una dimensione che è quella del segreto, dove la preoccupazione è tenere tutto nascosto e piano piano tu ne vieni risucchiato, cioè non trovi te stesso ma perdi te stesso, a quel punto quel giardino è pieno di erbacce e probabilmente rischi di trasformarlo in un boomerang che ti fa male. Abbiamo in linea con noi Piero, ci chiama da Bologna all'800 24 0024. Piero, buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Il mio segreto non è un segreto contemporaneo né con la compagna, è un segreto personale e fondamentalmente è un segreto con i miei genitori. Questo segreto non mi provoca più nessun tipo di reazione, né negativa né positiva, è solo un ricordo. Però io, quando avevo circa 7-8 anni, l'età esatta non me la ricordo, ebbi purtroppo dell'attenzione da parte, direi, di un pedofilo. e grazie al cielo erano attenzioni non violente e non invasive. Sì. E credo che io avevo specificato il concetto. Certo. Però comunque erano attenzioni di un certo tipo, con toccamenti vari e quant'altro. Io all'epoca non sapevo che queste cose erano qualcosa di non consono, e quindi tra virgolette lasciavo fare. Naturalmente la mia consapevolezza è venuta poi nell'adolescenza, però non ho mai voluto, visto che questa persona era una persona che era a stretto contatto con i miei nonni, perché praticamente lavorava come artigiano nel cortile dove i miei nonni abitavano e dove io venivo lasciato da bambino, dai miei genitori, esatto. E non volevo che questa cosa creasse qualcosa di violento, cioè raccontandolo naturalmente i miei genitori, soprattutto mio padre, avrebbe potuto avere una reazione violenta e magari aver creato qualcosa di molto più grave, e questo fondamentalmente per questo nell'adolescenza io non l'ho raccontato. Quindi Piero, lei ha tenuto il segreto per proteggere in un certo senso i suoi genitori. Alberto, tu ti sei occupato tante volte anche con libri di abuso. La storia di Piero racconta? Ma sono colpito e sono grato a Piero che ci chiama e ci racconta proprio un suo segreto che rimane lì. E volevo capire se Piero è riuscito a raccontare però questo segreto alla persona che ama, alla persona con cui divide la vita. Pronto? Sì. Sì, a poche persone, onestamente, non tanto perché me ne vergognassi, perché comunque, come dico, non è stata una cosa voluta, non avevo consapevolezza di quello che succedeva, l'ho avuta dopo, per cui non era una cosa voluta, però perché non ritenevo fosse una cosa particolarmente raccontabile, diciamo che l'ho raccontata a quello che si può identificare, come in tutti abbiamo nella vita, il mio più caro amico, e a due o tre compagne che ho avuto nel mio percorso di vita. Quindi diciamo che si contano su una mano le persone a cui l'ho raccontata. Ma non l'ho raccontata per liberarmi, una cosa del... Come dico, non ho mai sofferto di questa cosa in realtà. L'unica cosa che avrebbe fatto soffrire è vedere eventualmente stare male i miei genitori per questo. E questa era l'unica cosa di cui era la mia preoccupazione, ma non personalmente, non mi ha cambiato in nessun modo il mio modo di essere, okay. Perché come dico... Piero, forse quello che ci racconta lei è molto interessante anche nella prospettiva poi del libro della dottoressa Schelotto, perché io credo che nel proprio giardino segreto ognuno deve mettere il segreto che sceglie per la propria vita, mentre probabilmente quello che ci racconta lei è un segreto che qualcuno ha scelto di mettere nella sua vita, e quindi lei ne è stato in qualche modo vittima, testimone passivo, aggredito forse da quel segreto. Ma sentiamo cosa ci dice la dottoressa Schelotto. Ma io credo che questo segreto è per certi versi filtrato dall'innocenza con la quale il nostro ascoltatore dice di averlo vissuto, e cioè l'idea che condividere questo segreto con troppe persone avrebbe appesantito il senso di questa violenza, e probabilmente è una protezione degli altri ma anche una protezione di se stesso, cioè lui è riuscito a convivere con questa brutta storia in modo da non esserne travolto, e l'idea che condividendola con altri potessero alterare questa idea di innocenza, e quindi il suo giardino segreto è stato una forma di protezione anche per se stesso. Quando noi scopriamo che la persona che vive accanto a noi, pensiamo al nostro partner, pensiamo anche ai nostri figli, coltivano qualcosa di cui non ci parlano, noi spesso ci sentiamo in qualche modo traditi. È capitato anche a voi? 800 24 00 24. E intanto sentiamo Michelangelo che ci chiama da Milano. Buongiorno Michelangelo. Buongiorno, è molto interessante questa trasmissione, perché non so se scioglie dei dubbi che o dei pensieri che io ho. Molto rapido, io sono stato insieme a una ragazza a cui ho voluto molto bene, e quello che mi ha, alla fine della nostra storia, è stata di una repentinità incredibile, per cui adesso non ci sentiamo più. E quello che a me ha sconvolto e mi ha lasciato molto colpito è proprio il cambiamento di dialogo, e che non c'era più tra di noi, ma in una maniera, in un tempo rapidissimo, per cui io sono rimasto completamente congelato da questo atteggiamento, che probabilmente ho innescato anch'io. Non, non, io non, non sono di quelli che fanno la vittima di una relazione, cioè le colpe sono di entrambi. Però quello che mi ha molto colpito è proprio vedere nei suoi occhi, nel suo atteggiamento, un atteggiamento di un distacco che mi ha lasciato completamente basito. Si è trovato di fronte come ad un'altra persona, ho capito bene, Michelangelo? Esatto. E io ci tengo a dirlo, non è che non voglio più sentirla perché ho del rancore nei suoi confronti, è che non so più con chi sto parlando. Non si trova più. Ecco, è proprio viverti accanto e non sapere chi sei. Esatto. Ecco, come il sottotitolo del libro di Gianna Schelotto. Gianna. Sì, è proprio uno dei passaggi più frequenti nei rapporti di coppia. Quando una storia finisce, all'improvviso l'altro rivela degli aspetti di sé che probabilmente c'erano già molto evidenti prima, ma che non abbiamo voluto vedere. Cioè, se noi riandassimo indietro con il nostro ricordo, scopriremo tanti segnali di questo atteggiamento che però nel momento in cui la storia funzionava bene, in cui tutto andava bene, in cui ci piaceva avere un'immagine dell'altro che era quella dettata da noi stessi, ecco, a quel punto forse avremmo scoperto già prima questo cambiamento, ma ci si presenta improvviso perché nel tentativo di proteggere l'idea che noi abbiamo dell'altro si finge di non vedere, o quantomeno non si vede fino in fondo. Noi dobbiamo andare a sentire i mercati, ma prima vi rinnovo la domanda di oggi. Ci sono segreti nella vostra vita o nella vita di chi vive accanto che custodite perché pensate che vi aiutino a vivere meglio, solo se li tenete proprio nascosti? Considerate questi segreti come un regalo della vita, uno spazio in cui coltivarvi, oppure sotto sotto come un tradimento della fiducia di chi viveva accanto? E vi siete sentiti traditi, offesi da un giardino segreto della persona che vive accanto, di cui improvvisamente siete venuti a conoscenza? 800 24 00 24, aspettiamo le vostre chiamate. Uno di voi riceverà a casa il libro di Gianna Schelotto, Noi due sconosciuti. Mondadori Editore, Mercati, Meteo, e poi vi aspettiamo qua con i vostri giardini segreti. Essere e benessere. 1,5 milioni di persone viaggia ogni giorno sulla sopraelevata. In 20 anni ho scritto il testamento per circa 8,000 di queste persone. E se sei come la maggior parte dei miei clienti, alzi lo sguardo, sorridi e mi fai la domanda che mi sento fare da 20 anni. È tutto qui allora. Per quanto riguarda i documenti è tutto qui, rispondo. Il resto dipende da lei. 20 anni di matrimonio e una vita senza sorprese. Fino a quella sera. Non dire niente e non pensare. Nulla sarà come prima. Devi tenerla come se volessi fare l'amore con lei, qui sulla pista da ballo. Ma l'avete riconosciuto? È troppo carino, ve lo ricordate? Era un passaggio del film Shall We Dance, un film dove anche il grande... Alberto Richard Gere ha il suo giardino segreto. Guarda, io questo film lo trovo una versione moderna della Cariola di Pirandello e credo che sia molto bello per lo spettatore vedere cosa succede dentro alla coppia rispetto alla scoperta del giardino segreto, perché all'inizio è un problema enorme, secondo me, perché viene vissuto dalla compagna, da Susan Sarandon, col pensiero: che cosa mi stai facendo, perché mi tieni questo segreto? Cosa? Improvvisamente però lei piano piano entra proprio nella logica di capire che quello è il giardino segreto dove lui trova un senso di sé, quindi riformula tutto nella prospettiva di che cosa ti stai facendo con questa tua nuova passione, e senza sensi di colpa. Lega molto di più, ecco, quello direi è l'esperienza del giardino segreto perfetto per eccellenza. Gianna, grande film, devo dire molto in linea con il tuo libro. Grande accostamento proprio, e Alberto ha detto benissimo quello che c'era da dire, e quindi l'idea che il giardino segreto dell'altro possa in qualche modo, cioè la prima idea, la prima sensazione è che l'altro ci escluda, che se ci ha nascosto questa piccola cosa che scopriamo qualche volta per caso, chissà quante altre cose ci ha nascosto. Poi però nel momento in cui ci si mette in discussione e si verifica che a propria volta si porta dentro un qualcosa di segreto, allora è possibile creare un equilibrio e avere il reciproco rispetto. Natalia, Natalia dalla provincia di Brindisi. Sì. Buongiorno, l'ho detto Io ho sempre dei problemi un po' con l'accento, mi scusi, ma è giusto. Ostuni, provincia di Brindisi. Sì. Ecco, io volevo dire proprio, siccome ho avuto problemi di linea, lo volevo già presentare io dall'alto delle mie 51 primavere, mettere proprio in rilievo la funzione, dinamica del segreto, cioè appunto, poi adesso, proprio adesso mi stavate precedendo, nel senso che quello che può essere un segreto molto tenuto da conto dalla persona che lo vive, che ha vissuto l'esperienza, e poi trasportato nel tempo può diventare una sorta di carta jolly da giocare nel momento in cui si hanno delle relazioni dinamiche, per cui quel segreto lì può essere tirato fuori per poi portare avanti un discorso sulla chiave del segreto, che poi diventa praticamente pubblico, con le persone che vivono un'esperienza che è traducibile, certo, dentro la chiave di lettura di quel segreto lì. Faccio un esempio: nella crescita dei nostri figli, nel momento del loro sviluppo fisico, psicologico, quello che poteva essere un segreto per noi da ragazzi e adolescenti diventa materia di argomento per i genitori, che lo portano, se lo scambiano. Io per esempio l'ho fatto molto con mio compagno, ho portato delle mie esperienze adolescenziali con lui nel momento in cui avevamo delle difficoltà a capire i comportamenti dei nostri figli. Ed ha funzionato. E devo dire che quello, il riferimento che fa Natalia alla fase dell'adolescenza, è poi proprio una scoperta grandissima che a volte disorienta i genitori. Cioè, quando un figlio entra in adolescenza, comincia proprio a costruire il suo piccolo giardino segreto e lo tutela, lo presidia. E noi tante volte i genitori sentiamo davvero esclusi. È la prima volta che una mamma non ha la password di accesso al mondo interno, al mondo segreto di un figlio. Ecco, trovare un equilibrio tra permettere a un figlio di coltivare il suo giardino segreto e riuscire a costruire la giusta vicinanza, che poi è anche la giusta distanza da un figlio, è un'esperienza di evoluzione, di cambiamento, che fa bene a tutti in famiglia. Gianna, parliamo di il tuo libro, però, se vogliamo, parla di questo giardino segreto, ma per accettare il giardino segreto dell'altro e per coltivare il proprio bisogna lavorare sulla fiducia. Certo, ma la prima cosa che volevo dire rispetto a quello che ha detto l'ascoltatrice di prima sul come il rapporto diventa dinamico, perché proviamo a pensarci, un rapporto nel quale crediamo di dirci tutto davvero diventa poi prevedibile, diventa monotono, diventa sempre uguale, mentre invece la possibilità di sorprendere l'altro tirando fuori delle cose di sé è molto significativa, questa cosa del rapporto con i figli adolescenti, perché nel momento in cui ci si rivede adolescenti nei propri figli, i contorni di certi segreti perdono anche quel filo di inquietudine che potrebbero avere, quell'ansia del giudizio degli altri, no? Ci si rispecchia nei propri figli adolescenti e si capisce che quel segreto può essere utilizzato per aiutare gli altri e per crescere insieme a loro, ma soprattutto per permettere agli adolescenti di crescere. Se gli adolescenti non avessero dei segreti non potrebbero crescere mai, perché sarebbero sempre e solo dipendenti dal bisogno di parlare con i genitori e dal bisogno di dire tutto a loro. Quindi è uno spazio che va coltivato, tutelato, coltivato, però io ritornerei proprio sull'aspetto della fiducia, perché arrivano anche numerosi messaggi di ascoltatori che dicono: ho dato fiducia e poi ho scoperto che era tutta un'altra persona. 800 24 00 24, raccontateci le vostre storie, uno di voi riceverà a casa il libro di Gianna Schelotto. Andiamo a Torino, c'è Lara che ci aspetta. Buongiorno Lara, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Io racconto la mia esperienza, che è un'esperienza drammatica, nel senso che io sono una persona estremamente libera, una persona che ha sempre pensato che fosse giusto coltivare il proprio giardino segreto, ma nei limiti del rispetto dell'altra persona, delle altre persone. Sono stata sposata a 15 anni, ho amato moltissimo questa persona dalla quale sono stata tradita, la mia fiducia è stata tradita e l'ho saputo nel modo più banale e classico, con una telefonata anonima, e ho scoperto che il mio ex marito, tanti anni fa ormai, aveva una doppia vita, ma una doppia vita che per me era impensabile, nel certo. senso che questa doppia vita era una vita legata alle chat, ad internet, alla ricerca di un modo diverso di vivere la propria sessualità, e naturalmente io, che ero così innamorata, non avevo capito perché nessuno mi aveva fornito i mezzi per comprendere. O forse perché noi, Lara, non, come diceva Gianna Schelotto, non riusciamo a cogliere dei segnali che potrebbero farci intuire qualche cosa. Gianna? Perché non riusciamo a cogliere questi segnali perché ci provocherebbero grandi inquietudini, e noi viviamo in quel momento, come dire, il bisogno di che tutto vada bene, che tutto sia come desideriamo che sia, e questo ci impedisce di leggere segnali, cambiamenti, atteggiamenti che, rivisti poi a ritroso, ci svelano che forse certe cose potevamo vederle prima e forse addirittura le avevamo viste e le avevamo ignorate. E qui viene il punto della fiducia. Cioè, si dice qualche volta: io nel mio compagno ho una fiducia cieca, e secondo me la fiducia non può essere cieca. Cioè, la fiducia, c'è un bellissimo verso di un grande poeta che dice: la fiducia è l'uccello che canta quando la notte è ancora buia. Ecco, e quindi ci dice che la fiducia si muove al buio. D'altra parte, se fosse tutto certo. chiaro, c'è bisogno di avere fiducia. Certo. Ecco. Però proprio perché ci si muove al buio bisogna essere vigili, cioè non è che ci si muove al buio con una benda sugli occhi, ci si muove al buio, e per questo bisogna essere allerta, bisogna saper leggere nei cambiamenti, negli atteggiamenti dell'altro. Perché non può essere, la fiducia è cieca, è soltanto quella che hanno dei bambini nei confronti dei propri genitori. Lì è giusto sì. che un bambino pensi: i miei genitori non mi tradiranno mai, loro sono esattamente quello che sembrano, io a loro potrò affidarmi in maniera definitiva e totale. Invece la fiducia, diciamo, quando si esce dal giardino dell'Eden bisogna avere fiducia nell'altro, ma deve essere una fiducia costruttiva. Ecco, infatti, perché tra fidarsi e affidarsi sembrano sinonimi, ma in realtà sono due situazioni diverse tra di loro. Sono i bambini che si affidano ma... mentre noi dobbiamo avere la fiducia, no? E quindi stare allerti, il che non vuol dire che dobbiamo pensare che a ogni dettaglio, perché tutte le volte, Gianna, che le cose cambiano, io l'ho letto anche nel tuo libro, pensiamo che se una storia cambia, cambi sempre, no? Che venga tolto qualcosa, che cambi in modo negativo, invece le storie possono anche cambiare e crescere, no? Certo, ma soprattutto voglio dire, se io penso lui non mi tradirà mai, o parto da una sconfinata presunzione, cioè sul fatto che io sono tale da non poter essere mai tradita, o immagino che l'altro sia uno che si muova, come dire, un po' come un automa nella vita, nel senso che lui sarà esposto alle tentazioni, agli incontri, ai dubbi, è lì che scatta la fiducia, non pensando che uno sia cieco e sordo e che non possa vedere quello che gli accade intorno. Questa è la differenza. Andiamo a sentire i mercati, 800 20, no scusate, non sono i mercati, sono le 11.45, la viabilità, grazie a Roberto Scaltritti, ma pensavo una cosa e ne dicevo un'altra, non fidatevi tanto quindi di me, a tra poco. Essere e benessere. Ecco, dopo le informazioni sulle strade ritorniamo insieme, 800 24 00 24. Alberto ci chiama da Padova, vediamo se ci racconta del suo giardino segreto o di che cosa ha scoperto magari nel giardino segreto di chi gli vive accanto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, non parlerò del mio giardino segreto. Perché è segreto? Magari... Prego? Perché è segreto, certo. Per l'appunto. Però io non conosco il testo del quale stiamo parlando, però ascoltando quei diversi interventi che hanno preceduto mi viene anche da pensare che forse il taglio che l'autrice ha voluto dare era riferito proprio a un giardino, mentre invece in tanti casi resta il segreto e poi potrebbe trattarsi di una superficie un pochino fangosa, quella della quale si sta parlando. Nel senso che nello specifico, quando all'interno di una relazione non si riesce a viversi pienamente, è il proprio giardino segreto, è il luogo delle proprie trasgressioni, che magari sono mentali, o come raccontava Lara, mi pare da Torino, si esprimono attraverso questa forma deviata dell'uso della rete. Ma è un giardino quello? È un giardino. Anche quello si può considerare un giardino? È un... solo un segreto? Gianna? No, non è un giardino, quello è un pozzo nero. Infatti noi abbiamo continuato a dire che ci sono degli elementi fondamentali perché il giardino resti giardino, e cioè da una parte il controllo delle cose che si mettono dentro questo giardino, dall'altra parte un impegno di lealtà verso l'altro, cioè se in quel giardino ci sono cose che riguardano me, la mia infanzia, le mie fantasie, la mia identità, non possono nuocere alla relazione. Se invece in quel giardino ci sono aggressività, risentimenti, cattiverie, allora si tratta di sentimenti contro l'altro, e in quel caso certo non possiamo parlare di giardino segreto. Sono erbacce, non sono fiori. Barbara, buongiorno da Roma. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Grazie per lo spazio che date tutti i giorni. Ah, ma ci fa molto piacere, grazie. Io volevo portare la mia esperienza con mio fratello, quindi il giardino segreto di mio fratello, che è stata una triste scoperta per due volte, aver scoperto che nella sua vita fosse tornata una persona che in precedenza gli aveva fatto del male. Quando pensavamo di aver usato il diserbante giusto, passatemi la metafora, sì, per aver sconfitto questa gramigna, o quantomeno averla allontanata facendo riflettere lui, lui ha continuato invece a coltivarla nel suo segreto, e chiaramente quando è venuto tutta alla luce, perché prima o poi queste cose vengono fuori, è stato un dolore, una delusione un po' per tutta la famiglia. Io adesso non ho più modo di sentire mio fratello, non posso chiedergli come sta, dove sta, cosa fa, perché chiaramente mi parlerebbe solo di lei. È una cosa che mi fa stare molto male questa, quindi ho anche fatica a parlarne. No, ma si sente, Barbara, perché noi tante volte vogliamo, no, mettere un po' in ordine la vita degli altri per affetto. Perché scegliamo proprio Barbara per mandarle il libro di Gianna Schelotto. Secondo me è un libro che aiuterà a trovare parole per poter lavorare quel giardino segreto e condividerlo comunque per quanto possibile con un fratello che ora vive nella lontananza. Barbara. Sì. Grazie, sì. E riceverà a casa il libro di Gianna Schelotto, dove troverà davvero degli spunti, perché come sempre, mi dispiace dirlo proprio che adesso c'è Gianna in linea, ma i libri, e devo dirlo, però i libri di Gianna ti aiutano sempre a crescere, e questo per me è veramente, perché insomma ti fanno lavorare, ti fanno venire voglia di prenderti un po' in mano. 800 24 00 24 se volete raccontarci il vostro giardino segreto. E a proposito di giardino, ci sono dei fiori di cui spesso si sente parlare, ma di cui molti ignorano la metto tra virgolette sostanza, di che cosa si tratta, perché possono essere utili e a chi. In linea con noi abbiamo la dottoressa Katia Trevisani, che ha appena pubblicato per Apogeo Libro il libro Fiori di Bach per adulti e bambini. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, lei è medico, naturopata e direttore della scuola di naturopatia Simo e appunto autrice di numerosi libri. Che cosa sono questi strani fiori di cui spesso sentiamo parlare, perché chi ha una formazione ad hoc spesso li utilizza, li integra all'interno di percorsi terapeutici più affini alla medicina tradizionale? Allora, si tratta dei fiori di Bach, sono dei rimedi a base di essenze floreali. Sono stati ideati appunto da dottor Bach intorno al 1930 nel Galles. Si tratta di rimedi preparati con fiori non coltivati, sono fiori selvatici, e agiscono sia sul piano psichico-emotivo che sul corpo fisico. Dottoressa, in questo momento siamo all'inizio, io dico sempre inizio della primavera, insomma siamo quasi a metà, no? Però è comunque una stagione un po' di passaggio che per molti è una zona un po' critica. Come possono aiutare i fiori di Bach e in che modo? Allora, quando c'è un cambiamento di stagione, un passaggio, può essere utile il fiore del noce, si chiama walnut. E in primavera poi può essere un momento in cui si sente maggiormente la stanchezza. Ecco, sì, che in questo caso c'è un'essenza specifica, è il fiore dell'olivo, si chiama olive, e si utilizza soprattutto per la stanchezza fisica. Se invece è una stanchezza mentale, un po' da stress, si usa il fiore del carpino, orbim. Un altro rimedio utile potrebbe essere il fiore del melo, crab apple, che è un ottimo disintossicante. Quindi bastano 7 gocce e mezzo litro d'acqua da sorseggiare magari durante il giorno, magari per 3 settimane, e si fa una buona cura disintossicante. bisogna essere consigliati da un esperto, oppure per esempio i consigli che ha appena dato lei sono in grado di condurci verso una sorta di autosomministrazione? Questi consigli semplici possono così essere messi in pratica da tutti, quindi c'è un livello di base per sintomi molto semplici su cui qualsiasi persona può imparare a utilizzare questi rimedi. Invece per fare dei lavori più profondi sui traumi, su shock, su rancori antichi, allora è meglio affidarsi a un buon conoscitore della floriterapia che può così creare delle miscele apposite per aiutare la persona. Grazie alla dottoressa Trevisani per essere stata con noi, buonissima giornata. Anche a voi, grazie mille, salve. Gianna, siamo ormai in chiusura e diamo magari un'indicazione ai nostri ascoltatori, un messaggio su cui magari lavorare un po'. Noi ogni giorno abbiamo il nostro Daily Lab e ogni giorno un esperto dà dei consigli per aiutarci a stare meglio con noi stessi, a prenderci proprio, come si dice, in mano, diventare soggetti attivi della nostra salute, del nostro benessere. Prendendo spunto proprio dal tuo libro, vogliamo lasciarci con un consiglio? Proprio come potrebbero dare i giardinieri? È un compito difficile, però il messaggio che possiamo inviare è quello di non aver paura dei propri segreti, perché questo ci aiuta a non aver paura dei segreti degli altri, e tutto questo si riduce all'idea di avere rispetto degli altri. Sto pensando all'ascoltatrice che pensava di mettere un diserbante in un giardino che non le apparteneva, e quindi rispetto del giardino degli altri, anche se non condividiamo certi atteggiamenti e non condividiamo certe scelte. È importante il rispetto ed è importante la reciproca lealtà. Se noi non facciamo cose contro le persone che ci amano, difficilmente le persone che ci amano faranno cose contro di noi. Grazie a Gianna Schelotto. Gianna, a presto. Grazie a tutti voi, grazie Alberto, grazie a te e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie Alberto, noi ci sentiamo prestissimo, vi ricordo il nostro profilo Facebook, il nostro Daily Lab, e vi ricordo soprattutto che domani io sono di nuovo qui, dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buonissima giornata e buon giardino segreto. Essere e benessere.